Forse è anche sbagliato sacrificarsi troppo, no? Perché sono delle giornate in cui dobbiamo anche stare a tavola con la famiglia, i bambini. Incido queste parole sulla pietra. Ecco, sì. La qualità sulla quantità. Sulla qualità. Ma questa mattina, che perle di saggezza, hai abbiamo visto? Anche appreso la tecnica, com'è che è là? La tecnica dell'assaggio. Claudio, vada, veloce. Sì, buongiorno. Allora, sono contento di aver superato la barriera rosa. La vostra radio è formidabile, si riesce a parlare. Ed eccoci qui per una nuova puntata. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Stavo facendo le prove. Provavo a parlare con il naso tappato. Provateci anche voi. Ah, mantenete la posizione per qualche secondo e provate a pensare come sarebbe la vita senza questa adorabile proboscidina che trascuriamo e spesso di cui parliamo solo per lamentarcene. Sarebbe un vero disastro, perché la nostra vita sarebbe insipida, incolore, difficile da ricordare, perché il naso, lo sappiamo, è vita intesa come respiro ma anche come emozione, gusto e memoria. Allora oggi ci prenderemo cura del nostro naso e proveremo a sentire i profumi e gli odori, insomma cercheremo di capire come funziona come organo respiratorio e come organo di senso, ma lo guarderemo anche, perché di nasi ce ne sono di diverse dimensioni e forme. Ci sono i nasi lunghi, quelli a patata, francese, aquilino, e poi c'è chi ha un naso da cane da tartufo e chi ha il fiuto per gli affari, come la nostra donna di denari, Deborina, che oggi non è con me, non perché si sia messa a produrre grasso bruno sul balcone, sta benissimo, ma tornerà domani. E poi diciamocelo pure, c'è anche chi il naso non lo sa tenere al suo posto. Oggi vorremmo parlare anche dei ficcanasi che inquinano un po' la nostra serenità. Se ne conoscete uno, oppure magari se gli amici vi dicono che siete un ficcanaso, 800 24 00 24, prendete l'occasione per parlare di voi, delle persone che vi stanno accanto, di come reagite, ma soprattutto oggi parliamo del nostro naso, cercheremo di capire come funziona. Tra l'altro, un ficcanaso illustre, o che almeno è stato spesso accusato di essere tale, è il fisco, che con il redditometro sente la puzza di evasore fiscale. Ma l'equivoco è dietro l'angolo e questo naso lungo del fisco a volte preoccupa un po' anche noi. Allora oggi torniamo a rispondere alle vostre domande e anche alle mie, naturalmente. Cercheremo di tranquillizzarci e quindi partiamo. Natura. Nutrizione scientifica vi presenta Essere e benessere. Fiori rosa, fiori di pesco. Come vi dicevo, oggi sono sola, però Deborah tornerà domani fresca e profumata come una rosa. Intanto oggi è venuto a tenermi compagnia il dottor Andrea Franzetti, primario di otorino alla laringoiatria all'ospedale Bassini di Cinisello Balsamo e al Buzzi di Milano. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta, e soprattutto non so se profumerò come una rosa come Deborah. Ma io mi auguro, lei ha un buon profumo. Sì, però bisogna vedere se è sostituibile. È vero, perché ogni naso sente il profumo in modo diverso. Provare per credere, lo avranno pensato anche i ricercatori della Duke University, che hanno voluto vederci chiaro e ci hanno messo il naso. Andiamo a sentire. I ricercatori americani hanno appena dimostrato che lo stesso fiore non profuma per tutti allo stesso modo, perché il 30% dei nostri recettori dell'olfatto differisce fra una persona e l'altra. La variabilità è sostanziale perché il nostro olfatto è composto da circa 400 proteine recettrici che hanno una variabilità del 30%. Ciò significa che approssimativamente abbiamo 140 recettori che risponderanno in modo differente annusando lo stesso odore, spiega Joe Mainland, biologo molecolare responsabile dell'esperimento. Questo rende il nostro olfatto unico e irripetibile, una combinazione di recettori che fa sentire in modo differente la piacevolezza, l'intensità e la qualità delle molecole odorose. Dottor Franzetti, quindi posso dire che tra me e lei esiste una variabilità pari al 30%, ma direi che oggi, stamattina, in questo momento, lei con il suo naso mi straccia, non solo perché è più grande, perché... No, il naso di Nicoletta è bellissimo. Poi con gli occhiali viola che ha su oggi. Magnifica, vi manderò una foto. Ma perché il mio oggi, lo fa spesso, è tappato. Ma penso che questo sintomo sia comune a molti dei nostri ascoltatori, perché l'influenza, o meglio le sue sorelle, le sindromi parainfluenzali, ci stanno già mettendo KO, il naso si tappa, colo un po' di febbriciattola. In linea con noi non poteva mancare il mio influenzologo preferito, abbiamo in linea il professor Fabrizio Pregliasco, virologo all'Università di Milano. Professore, buongiorno. Qua, buongiorno a tutti. Puntuali come le cambiali, puntuali come l'influenza, arriva il professor Pregliasco che ci dice che sostanzialmente casi isolati di influenza ci sono già stati, 300.000 almeno i casi ipotizzati complessivamente, però altrettanti, anzi 600.000 casi di forme simili influenzali, quelle appunto con naso chiuso come quelle di Nicoletta appunto adesso, forme non di vera influenza, quella che ci costringe a letto, che ci aspettiamo nella sua diffusione effettiva da Natale in poi. Come sempre i baci e abbracci saranno un momento piacevole ma anche facilitante per la vera influenza che si scatenerà appunto nel periodo più freddo, nel mese di gennaio, temiamo, con la riapertura delle scuole. Tra l'altro, professore, nelle prossime ore sull'Italia temperature in discesa, d'altra parte questa è la stagione, se non fa freddo adesso, quando deve fare freddo? Però è prevista, il freddo sappiamo che tutti noi lo associamo all'influenza, ci sono però delle avvertenze, non è tanto il freddo, no, a farci venire l'influenza, quanto il passaggio dal caldo al freddo. Gli spazi termici sono il momento di passaggio dal fatto di stare in un ambiente chiuso o in macchina con il riscaldamento, la fase di passaggio, e facilitato ovviamente da temperature molto basse ambientali, ci bloccano quella che è la capacità delle prime vie respiratorie, del naso, di bloccare già meccanicamente l'ingresso dei virus, e lì ci colpiscono. Ci hanno già colpito appunto soprattutto quelli simili influenzali, il freddo intenso e prolungato vediamo essere l'elemento scatenante invece dell'influenza, che appunto in questi giorni e durante le feste vedrà l'incendio scoppiare. Speriamo di non beccarla a Natale, prof. È vero, purtroppo questo c'è. No. Piccola cosa, magari vacciniamoci ancora, ecco, la butterei lì, siamo ancora in tempo, perché appunto la vera influenza sarà un po' più avanti. Non trascuriamo gli aspetti, come sempre, di buon senso del lavarsi frequentemente le mani e soprattutto, come dicevamo, gli sbalzi termici. Grazie professor Pregliasco per essere stato con noi, buonissima giornata. Arrivederci a tutti e buona influenza a tutti. Speriamo di no, professor dottor Franzetti. Assolutamente no. Anche perché il naso, già il mio è tappato adesso, ma molti ascoltatori mi stanno scrivendo che hanno il naso a cannelletta che gocciola di continuo. Altri ascoltatori mi scrivono, ad esempio uno in particolare, in attesa di intervento ai turbinati uso uno spray, ecco, all'aloe, un flacone alla settimana, cosa vado incontro? Altri ascoltatori mi segnalano, non sento più gli odori come prima. Oggi noi vorremmo parlare con il naso, perché a parte che questa è una stagione difficile, per cui vorrei che i miei esperti ci suggerissero un po' delle attenzioni o dei rimedi, ma anche perché il naso ci racconta una serie di cose che noi solitamente trascuriamo, perché pensiamo che il naso sia fatto lì solo per respirare, catturare gli odori o darci fastidio quando gocciole si tappa. In realtà, dottor Franzetti, il naso è una miniera di informazioni. Certo, perché in realtà sarebbe bello parlare non solo di quando il naso non funziona, ma di quando il naso funziona, perché è veramente un organo misterioso e che ci introduce a tantissime cose della vita. Per esempio, noi potremmo fare un quizzettone. Dai, che ci piace, perché poi lei viene qua per farmi quizzettone. Per fare il quizzettone. Ha ragione. Perché noi possiamo, per esempio, sapere che così come è stato mappato il gusto, così come sono stati mappati altri sensi, è stato creato un atlante degli odori che il naso può sentire. Sì. E noi potremmo farci la domanda: ma quanti sono gli odori fondamentali, quelli mappati che il naso può sentire in quanti gruppi li abbiamo raggruppati, e allora potremo dare quindi alla domanda quanti sono gli odori mappati che il naso può sentire, sì, con quelli fondamentali, la risposta potrebbe essere 5. Potrebbe essere amaro, aspro, dolce, salato, umano. Oppure uno potrebbe dire: così sono ancora pochi. Sì. Gli odori sono 10. Il doppio addirittura. Il doppio, perché abbiamo degli odori buoni e degli odori cattivi. Gli odori buoni sono fragrante, fruttato, dolce, legnoso, chimico, menta, popcorn e limone. Mentre gli odori più cattivi sono classificati in pungente e decomposto. Sì, la puzza proprio. Ma altri potrebbero dire: 10 mi sembrano troppi. In tempo di crisi ne facciamo 3. Li raggruppiamo in odori chimici, puzza, tutte le puzze, e odori sexy. Ah beh, allora la domanda praticamente... La domanda è: quanti sono gli odori fondamentali mappati? Sì. 5, 10, 3. 800 24 00 24, questo è il numero verde che potete chiamare per raccontarci la mappa degli odori, per raccontarci se siete dei ficcanasi o vivete vicino ad un ficcanaso, come reagite, vi lasciate invadere oppure vi schermate, e soprattutto cercate di raccontarci come funziona il vostro naso: respira bene, catturate gli odori, si secca, prude, gocciola. E c'è anche il problema molto frequente soprattutto nei bambini, ma può essere anche un campanello d'allarme negli anziani e negli adulti, il naso che sanguina frequentemente. 800 24 00 24. Soffia quel naso de falco, scrolla la frogia perché... E noi andiamo subito a Modena perché c'è Giovanna che ci ha chiamato. Buongiorno Giovanna. Buongiorno. Che naso... Grazie. Ha lei? Come? Che naso ha lei? Ah, io ho chiamato perché ho un naso secco, è sempre secco. Non ho quasi mai il raffreddore. Fortuna. Qualche volta mi prendo l'influenza, ok. Sì. E ho sempre lavorato con i bambini. Però anche, insomma, non ho mai... Insomma, nonostante i bambini, non si è presa neanche l'influenza, il suo naso è secco. Ma lei è contenta di avere il naso secco oppure... Però il naso, ho questo naso secco che mi dà un pochino fastidio. Perché le dà fastidio? Come? Perché le dà fastidio? Sento le pareti interne un po' secche. E si formano delle crosticine nel naso? Ma no, non proprio, non mi vengono le crosticine, però lo sento secco. Spiego perché il naso può dipendere non solo da quello che c'è nel naso, ma può dipendere da tutto l'organismo. Quindi bisogna andare a vedere anche cosa uno mangia, se ha problemi gastrointestinali, se ha problemi di digestione, perché è se è un problema allergico, cioè va proprio studiato, perché il naso ha un mistero, cioè è come se fosse la punta di una situazione organica, certo. Quindi potrebbero essere anche problemi di intolleranze a far gocciolare o seccare il nostro naso? Assolutamente sì. Marco da Pordenone, buongiorno. Sì, ciao, felice di sentirti per l'ennesima volta. Ogni 3-4 mesi ci sentiamo. Bene. Io e la mia ragazza abbiamo tutti e due problemi, che abbiamo sempre il naso chiuso. Sì, come io me. Per motivi allergici, quindi proprio il mio è costante. E su invece più che altro un raffreddore che viene molto spesso. E io in più soffro anche di frequente sangue di naso, sono stato anche operato 2 volte, però non hanno risolto praticamente niente. E quindi io sono, purtroppo, so che fa schifo da dire, però io il problema è che sono costretto in pratica a tirar su, perché se soffio il naso spesso verrei perché ha questo naso sensibile, certo. Molto. Dottor Franzetti. E il problema del sanguinamento è il primo problema che va risolto, che va studiato, che va risolto. Il problema del sanguinamento nasale può anche essere una causa apparentemente banale, però è molto fastidioso. Quindi va proprio indagato e cercato di studiare esattamente qual è la causa del sanguinamento, perché il naso ha tantissimi sia vasi arteriosi, dei capillari arteriosi, tantissimi vasi venosi. Questi si possono rompere in tantissime circostanze, sia locali, per esempio quando il naso secco, quando il naso invece tende a essere soprattutto diciamo più infiammato o avere soprattutto degli stati irritativi costanti, tipo quello che lui ha. Per cui bisogna prima capire perché. Come si fa a capire? Da chi si va? Dall'otorino? Ma che ci sono degli esami da fare? Allora bisogna capire primo se è un problema locale nel naso, quindi sì, bisogna fare un'ispezione accurata nel naso con delle fibre ottiche. E che poi, però non fanno male, io le ho provate, è una specie di tubino. È una specie di tubicino che può essere di dimensioni anche molto piccole, si arriva anche a un millimetro due, si riesce a guardare tutte le zone del naso e lì si vede se ci sono delle zone, diciamo, apparentemente frutto di possibili sanguinamenti, e queste eventualmente vanno trattate. Oppure bisogna andare a valutare se ci sono o delle interazioni con farmaci che si prendono, sì, oppure delle situazioni generali che possono influire su questo. Dottor Franzetti, ci sono nasi che si chiudono solo da una parte, a destra o a sinistra, e solitamente quando si libera una narice si tappa l'altra. Allora, questo è un segno. È una cosa molto interessante. Beh, perché se il naso, perché ce l'ha il mio naso? No, perché se il naso è sempre chiuso da una parte sola, è facile che sia una situazione morfologica stabile e quindi probabilmente una deviazione del setto costante, perché è sempre chiusa da una parte. Ma la cosa più comune invece è quello che succede alla Nicoletta, cioè che alternativamente il naso si chiude da una parte e si apre dall'altra, peggiora quando uno si sdraia, se si gira sul fianco cambia quello che si gonfia, che è il turbinato che è all'interno del naso. Questo maledetto turbinato. Che tende a reagire e quindi a gonfiarsi in maniera eccessiva. Allora adesso voglio darle un consiglio che ci arriva da Anna. Noi abbiamo ascoltatrici che ci aiutano con, spesso con i loro consigli di benessere, noi li leggiamo molto volentieri. Anna usa spesso lota per lavarsi il naso con acqua e sale, non ho mai il raffreddore, pratica anche lo yoga. Assolutamente un rimedio efficacissimo. Soprattutto in questa stagione. Acqua e sale, meglio se tiepida. Soprattutto in questa stagione che sta arrivando il raffreddore, o l'influenza, o le sue sorelle, le sindrome parainfluenzali, il lavaggio del naso sono delle cose semplici. Il lavaggio del naso ci aiuta un po' a proteggerci, giusto, dall'attacco dell'influenza? Certo, perché migliora la situazione delle mucose nasali, ma soprattutto ci toglie tutte, diciamo, le impurità che possono essere nel naso. Interessante la sottolineatura della lota, perché non è facile lavarsi il naso con la lota, nel senso che bisogna far scendere l'acqua da una parte, farla girare, cioè non è il semplice lavaggio con lo spray, è un po' per diciamo nasi raffinati. Esatto, nasi raffinati. Noi però possiamo farlo anche senza lota, come possiamo farlo con la classica siringhetta senza magari l'ago naturalmente, esatto. E quindi mettere questo liquidino leggermente tiepido, acqua e sale, e fare questi lavaggi. Facile. Allora, teniamo il naso a posto, come ci suggeriva anche il professor Pregliasco, quando starnutiamo, mano davanti almeno alla bocca, ma poi quella mano evitiamo, esatto, di darla, laviamola. Ma questo per dire che c'è chi il naso non riesce proprio a tenerlo al suo posto, è il ficcanaso di cui vorremmo parlare oggi, che ci sono però dei nasi che vanno anche a guardare nei nostri affari, ma anche chi fa i conti nelle nostre tasche, e negli ultimi tempi, qualcuno sarà d'accordo, qualcuno meno, ad essere accusato di essere un ficcanaso è il fisco. Ma c'è un ospite di denari che oggi mi aiuta ad annusare un po' il fisco e iniziamo subito a salutare. Buongiorno a Nicola Forte, consulente tributario ed esperto per il Sole 24 Ore. Buongiorno, eccola qua. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Dottor Forte, in particolare il naso che il fisco sta ficcando qua e là si chiama redditometro. Possiamo dire che questo è il naso del fisco? direi che questo è sicuramente un'intrusione a tutto campo, anche se in realtà il fisco ci aveva già abituato con altri strumenti. Il redditometro in ordine di tempo è quello su cui si è concentrata l'attenzione, anche perché proprio quest'estate il fisco non rinuncia, ahimè, neanche d'estate, quando la stagione è più bella e più calda, è uscita fuori con una circolare dove ci ha fornito alcuni chiarimenti e ci ha spiegato come funzionerà questo meccanismo, no? Che è fondato sostanzialmente sulle spese sostenute e su un principio anche molto, molto semplice, nel senso che se io spendo 100, il fisco presume che io nello stesso anno abbia avuto un reddito di pari entità e quindi certo, devo averlo dichiarato. Noi però spesso siamo un po' preoccupati, a volte le preoccupazioni sono eccessive. Dottor Forte, ci aiuta magari a focalizzare alcuni aspetti in modo che noi rivolgiamo, chi sentiamo i nostri ascoltatori e li invitiamo, se sono preoccupati che il fisco ficchi il naso nei loro affari, magari di mettersi in contatto con noi per essere rassicurati, o speriamo sempre rassicurati, ma insomma ricevere dei chiarimenti da lei. Ma sicuramente, diciamo, c'è forse una preoccupazione eccessiva, nel senso che poi il fisco, a prescindere da tutto, già conosce buona parte delle spese che noi sosteniamo, però certo, queste spese le possiamo sostenere perché o abbiamo un reddito dichiarato, oppure perché abbiamo venduto un immobile realizzando anche una somma importante che legittimamente non deve essere dichiarata, o semplicemente perché un figlio ha avuto un aiuto dal padre, certo, spesso in questo momento avviene, quindi bisogna essere tranquilli e sereni. Però se c'è un aspetto della vostra economia familiare che temete possa risultare non chiaro agli occhi del fisco, oppure c'è una spesa grossa che avete fatto nell'ultimo periodo con risparmi magari messi da parte in tanti anni e temete possa risultare sospetto, 800 24 00 24, portate le vostre domande qua. Oh naso mio, come parlar male d'una cosa naturale, quotidianamente c'è chi mi dirà. Si tappa, gocciola, starnutisce, prude, questo fa il naso quando ci dà fastidio, ma quando invece sta bene è tutta un'altra storia. Sentiamo i profumi che ci fanno poi riattivare i ricordi, respiriamo a pieni polmoni e quindi ci ossigeniamo, e noi è quello che vogliamo fare, imparare a fare, continuare a far stare il nostro naso in totale benessere, e quindi abbiamo chiesto una mano, non potevo dire il naso, del dottor Franzetti, che è qua in studio con me. Intanto abbiamo parlato anche di ficcanaso, il redditometro l'abbiamo un po' paragonato insieme a Nicola Forte, che è ancora in linea con noi, come il naso lungo del fisco. Se avete le vostre domande, 800 24 00 24. Intanto andiamo a Fernanda, che ci chiama da Lucca. Buongiorno Fernanda, benvenuta. Buongiorno. Allora, il mio problema è questo: da un po' di tempo ho il naso che è molto asciutto e ultimamente mi sembra di respirare sempre, continuamente, aria fredda. Il naso asciutto sembra un problema, dottor Franzetti, più femminile. Come mai? È possibile che c'entrino magari gli ormoni, alcuni tipi di ormoni in una fase particolare della vita? Sicuramente. Gli ormoni c'entrano, soprattutto adesso io non so l'età della signora, però sicuramente verso la menopausa si può andare incontro a questi fenomeni. La correzione degli ormoni durante la menopausa, eccetera, in varie modalità, come indicato dal medico, eccetera, sicuramente può portare un beneficio. Sul naso chiuso bisogna notare che, per esempio, Sandra, ad esempio, scusi, a proposito di ormoni e menopausa, ha assunto la tintura madre di agnocasto. Lei lo conosce? che è un diciamo così, un rimedio naturale. E ha risolto il problema. E ha scritto: ormoni calmati, naso nuovamente felice. Mi piace forte, Sandra. Dottor Franzetti, scusi, mi interrotta. Il naso chiuso spesso lo si nota di più quando si è in inverno. Certo. Perché? Perché l'aria fredda non è più riscaldata adeguatamente anche dai turbinati. Per cui prima di dare la colpa però a situazioni sistemiche bisogna dare un'occhiata nel naso. Certo. Perché se i turbinati sono troppo sgonfi, e questo è il contrario di quel che succede a chi ha il naso chiuso, sì, no? Se sono troppo sgonfi non svolgono più la loro azione. E quindi attenzione, perché per esempio chi usa spesso troppi vasocostrittori spray, perché ecco, mi dica cosa vuol dire spesso, perché quando voi dite spesso io non capisco. Spesso vuol dire tutti i giorni, ogni mese, 3 volte alla settimana. Ci sono persone che le usano tutti i giorni e quindi questa cosa qui comporta nel tutti i giorni per vanno avanti anche per mesi a usarle, e queste cose qui comporta sicuramente dei rebound, si chiama, cioè delle situazioni in cui il naso risponde al contrario, cioè a un certo punto basta, o si chiude totalmente o si apre troppo, e quindi questo comporta una serie di fastidi che poi si ripercuotono anche sulla gola, per esempio. Una cosa interessante vorrei sottolineare insieme a lei, dottor Franzetti, è che il naso che gocciolo si secca ci avverte subito, sono di segnali chiari, e noi possiamo decidere di attrezzarci, magari ci facciamo autodiagnosi e ci autocuriamo, oppure andiamo dal medico e risolviamo in qualche modo la situazione, anche perché avere spesso la goccia al naso è molto fastidioso. Invece c'è un altro indicatore della salute del nostro naso che spesso trascuriamo, ma non perché non siamo attenti, ma perché ci abituiamo, e mi riferisco alla capacità del nostro naso di catturare gli odori. Ne sentiamo sempre meno, il nostro naso ne cattura sempre di meno, certo. Non ci rendiamo conto che perdiamo l'olfatto, ma questo in realtà succede, e anche questo è un indicatore della salute e del benessere del nostro naso. Certo, sia del benessere del nostro naso e anche del benessere del nostro cervello, perché spesso tanti, soprattutto con l'avanzare dell'età, tanti segni di decadimento, un pochettino anche cognitivo o di affaticamento cerebrale, che potrebbero essere magari curati o comunque anticipati, possono iniziare con una caduta dell'olfatto, della capacità di percepire gli odori. E a proposito di odori, dottor Forte, ci sono una serie di voci di spesa che puzzano un po' e che vengono osservate con particolare attenzione dal redditometro. Sono oltre 100. Lei però ci ricordi quali sono le più importanti, le più comuni? Sì, certo, anche perché questo è un principio assolutamente innovativo rispetto al vecchio redditometro. 100 voci di spesa, pensiamo all'acquisto di un immobile, all'acquisto di un'autovettura, al pagamento di un mutuo, al pagamento di un canone di affitto, all'acquisto di un capo di abbigliamento molto molto importante, o pensiamo anche a un viaggio. Sappiamo che viaggiare è un hobby molto bello, ma in alcuni casi si riesce a viaggiare in economia, in altri casi i viaggi sono molto più costosi. Certo. Anche in questo caso il fisco, su queste voci che alcune volte possono essere molto importanti di spesa, punta la sua attenzione. Voglio leggerle il messaggio di un'ascoltatrice che mi scrive: vi prego, leggete, è importante. Allora le racconto. Ho 24 anni e sono del Vicentino. L'anno prossimo io e il mio ragazzo ci sposeremo. Stiamo temendo che le entrate, che sono eventuali buste, bonifici a nostro favore da parte dei parenti invitati, e le uscite, le spese, possano farci avere brutte visite. Abbiamo sentito che ci vogliono accortezze particolari, soprattutto per le famose buste, quelle dei familiari. Ad esempio, aprire un conto corrente apposito, specifiche su causali, è vero? Cosa dobbiamo fare? Insomma, è una coppia giovane che si sposa, avrà magari qualche entrata per parenti e amici, adesso ormai non si usano più i regali, si raccolgono direttamente i soldi. Dottor Forte, che cosa consiglia? Beh, allora, è chiaro che il consiglio banale che si può dare, ma diventa poi anche difficile realizzare di fronte a un evento ovviamente così bello, dove ci si concentra verso altri aspetti, è la cosiddetta tracciabilità. Questo soprattutto se le somme sono somme più importanti, magari somme più importanti provengono da parenti più stretti. Sì. E allora, anche se magari un regalo è sotto la soglia della la cosiddetta antiriciclaggio, perché ricordiamo che i trasferimenti di denaro contante superiore a 999,99 euro non possono essere effettuati appunto in contanti, ma devono seguire uno strumento tracciato, cioè un bonifico, un assegno alto. Però se anche le somme fossero inferiori e provengono, ripeto, da congiunti o da parenti stretti, ai quali magari in tutta confidenza si può chiedere di fare un pagamento tracciato con un bonifico, sicuramente questo è preferibile. Certo. Avrei Eros da Treviso, se è molto rapido, perché poi abbiamo le informazioni sulle strade. Eros, buongiorno. Buongiorno. Eccoci qua, vada con la sua domanda. Allora, io volevo chiedere, io volevo riuscire a far installare la caldaia a condensazione per sostituirne una che ho già, e mi avevano già fatto una più o meno previsione di spesa che comunque è abbastanza importante. Mm. E volevo sapere se, siccome sono un dipendente, volevo sapere se poi quando facevo tutta l'altra fila venivo poi a venire a essere anch'io segnalato o in certo qual modo, se facendo tutta la parte pagamenti, bonifici e quant'altro, oppure potevo stare tranquillo perché comunque è una cosa normale. Allora, mi agito, sto tranquillo, chiede Eros, per è la sua caldaia. No, io direi comunque, ecco, questa è la dimostrazione che in qualche modo forse c'è la componente ansia che si è diffusa in maniera forse affrettata o ingiustificata. No, direi di stare tranquillo, è una spesa importante farla comunque con uno strumento tracciato, un assegno, un bonifico. Probabilmente la sua preoccupazione è che se la spesa dovesse superare i 3.600 euro, pur mancando la fattura dell'installatore, ci sarà una segnalazione al fisco. Ma Eros svolge un'attività di lavoro dipendente, certo, e quindi poi riuscirà a dimostrare che il reddito dichiarato come dipendente è capiente rispetto a quella spesa, a meno che non abbia sostenute tante altre spese. Monsieur, il vostro naso è alquanto grande. Alquanto? Oh, visto? È tutto qui. Beh, naturalmente. No, giovin signore, voi mi deludete. Avreste potuto dire ben altre cose. Perché sprecare questa opportunità? Per esempio questo. Aggressivo. Signore, se quel naso fosse mio me lo farei amputare seduta stante. Pratico. Come fate a bere? Tanti nasi, tante storie. Siamo tornati insieme. Raccontateci allora la storia del vostro naso. Come si comporta? Che cosa lo irrita? Che cosa gli piace? Ditemi se riconosce bene gli odori. E questa è una domanda un po' difficile, dottor Franzetti, ma lo stanno facendo notare molti ascoltatori che mi dicono: ma io come faccio a capire se il naso funziona a dovere, se cattura tutti gli odori o se il nostro olfatto si è un po' addormentato? Questo senso primitivo è un po' anarchico. Ci sono delle prove molto veloci che uno può fare, per esempio ci sono degli odori molto forti che ci indicano se il naso almeno grossolanamente funziona dal punto di vista dell'olfatto, l'odore di caffè per esempio, no? Oppure il fatto, l'odore di gas, però direi di non stare ad aprire il gas, sì, per vedere, certo, se uno lo sente. Però per esempio l'odore di caffè è un odore che immediatamente del caffè ci fa percepire se grossolanamente funziona il tutto. Poi dobbiamo cercare di capire se è deformato l'odore, cioè se un odore che per tutti è un profumo per noi è una puzza, o viceversa. No? Per cui queste, iniziare a capire, perché ci sono anche delle persone che hanno dei gusti un po' particolari, che quelle che per noi sono puzze lo considerano dei buoni odori, e quindi questa cosa qui ci deve fare comunque pensare che dobbiamo valutare com'è il nostro olfatto. Poi esistono degli esami più dettagliati, tipo l'olfattometria, in cui vengono fatti respirare degli odori fino anche a dei livelli molto fini, e si riesce a tarare quanto un naso riesce a odorare, riesce a distinguere. Poi ci sono delle cose molto molto fini che si arriva anche a livelli proprio professionali, però questo è abbastanza oggettivo, è usato anche in medicina del lavoro, in medicina legale. Ecco. Dottor Franzetti, a proposito di odori, il suo quizzettone si concentrava proprio sugli odori, certo, vogliamo ricordarlo? Quindi la domanda era: la mappatura degli odori fondamentali, quanti odori riconosce per il nostro naso? 5, 10 o 3? 5, 10 o 3? Date un numero al solito numero verde 800 24 00 24 per ricevere a casa uno dei tantissimi libri della libreria di Cuore Denari. Specificate se siete più interessati ad avere un libro sul tema cuore, salute in generale, o più denari. Intanto abbiamo Cristiano da Cagliari. Cristiano, buongiorno. Buongiorno, saluto a tutti voi. Una gentilezza, io chiamo perché ho un fastidio da diversi anni al naso, soffro anche di sinusite, però quello che mi preme sapere è capire se il dolore anche ai denti è causato comunque dalla sinusite o comunque al fastidio al naso. E questa introduce una domanda importante, intanto che il naso condiziona i cosiddetti seni paranasali, cioè proprio la porta d'ingresso di quegli spazi che il cranio ha sopra la fronte, sotto gli occhi e anche più profondamente. Quindi la sinusite non è nient'altro che una conseguenza di un malfunzionamento in qualche modo del naso. La sinusite ha come sintomo il dolore. Il dolore che può anche essere il dolore a pressione, oppure il dolore senza anche la pressione? Potrebbe anche essere un dolore senza pressione, però la pressione nella sinusite aumenta il dolore. Quindi già il fatto che uno abbia una sensazione di pesantezza, un dolore nella zona dei denti, chiaramente nella parte superiore dell'arcata dentaria, perché se sono i denti in basso chiaramente non parliamo di sinusite, e se la pressione in quella che viene chiamata la fossa canina, cioè quella zona lateralmente all'ala del naso, subito sopra i denti, aumenta questo dolore, sicuramente una certa componente irritativa del seno paranasale, quindi la sinusite, potrebbe esserci. Insomma, possiamo fare una sorta di autodiagnosi usando un dito per la sinusite? Sicuramente è indicativo, certo. 800 24 00 24, spiegheremo anche il sangue del naso nei bambini di 2 anni, come mi chiedono tanti ascoltatori. Voglio leggervi un messaggio di Peppino, che non c'entra con il naso, ma ci dice che sta viaggiando sulla Firenze-Roma e sta incontrando tante auto che viaggiano a luci spente, nonostante la nebbia, quindi accendete, questo ci ringrazia Peppino. Abbiamo in linea Giovanni, che ci chiama da Modena. Forse ce la facciamo se lei mette il nasino veloce e rapido, Giovanni. Sì, rapidissimo. Rinite vasomotoria e allergica. Il problema è che soprattutto la vasomotoria, che quando vado a dormire mi si occlude una narice o l'altra in alternanza. Bravo, allora, sto prendendo un cortisone per naso, ma non posso prenderlo a vita. Allora, purtroppo lo devo interrompere e quindi non so cosa fare quando lo interrompo. Allora, io interrompo lei, Giovanni, ma noi ci ritroviamo subito dopo il GR con nasi che gocciolano, si seccano, tappano. A tra poco. E noi siamo ritornati finalmente insieme, sono le 12:10, ficcate il naso, 800 24 00 24 se volete intervenire a parlare di nasi a tutto tondo, come respira, che cosa fa, che cosa lo infastidisce, e parliamo anche del ficcanaso per eccellenza, il naso lungo del fisco che mette il naso nei nostri affari con il redditometro. Aspettiamo le vostre domande, le vostre telefonate, ma abbiamo ancora una risposta in sospeso, dottor Franzetti. Giovanni, che certo, quando si mette a letto si tappa il naso, è un classico. Avevamo lasciato Giovanni, che aveva già una mezza diagnosi, che era quella di questa ipertrofia vasomotoria dei turbinati. Quando spesso si fanno delle terapie, lui ha detto che ha fatto delle terapie con degli spray, dei cortisonici o quant'altro, se queste terapie danno un buon esito ma momentaneo, cioè per un breve periodo di tempo, poi il naso si richiude, poi ritornano questi disturbi eccetera, uno dei rimedi per non usare più queste terapie e stabilizzare le mucose nasali con le tecniche che abbiamo adesso è fare dei trattamenti delle mucose o sottomucose con il laser, perché questi sono dei trattamenti che si fanno in anestesia locale, sono poco più che andare dal dentista, giusto per rendersi conto di quello che succede. Non c'è sangue, non ci sono tamponamenti nasali. Non è cruente? I medici sono sempre cruenti, però voglio dire, tendenzialmente immaginiamoci una cosa che preoccupa più che andare dal dentista, un'anestesia locale, e i risultati sono ottimi dal punto di vista soggettivo, durano anche un certo numero di anni, non possiamo dire che durano per sempre, sì. Però diciamo che per un certo numero di anni sicuramente sono ottimi. Salva Danaio. Profetico, nonché magnetico, geometrico ed acrobatico, sei spesso problematico. Dottor Franzetti, vogliamo rispondere ai tantissimi messaggi che arrivano, immagino, da genitori che ci segnalano e vogliono un suo consiglio per trattare il naso dei loro bambini che spesso sanguina. È un problema degli anziani e dei bambini, forse le cause sono differenti, ma come si interviene? Allora, le cause sono sicuramente differenti. Intanto dobbiamo dire che nei bambini bisogna saper trattare la cosiddetta epistassi, perché il bambino deve essere tenuto intanto non con la testa indietro ma con la testa in avanti, perché il naso deve uscire al davanti nel naso e non andare dietro dove ci sono anche tutte le vie aeree. Il sangue non va ingoiato, per cui tendenzialmente le epistassi nei bambini sono tutte anteriori, quindi la testa in avanti, il lavare bene il naso, farlo soffiare e stringere leggermente la punta del naso e le alette che ci sono, le alari che ci sono, perché al 90% il punto di sanguinamento dei bambini è proprio una zona del setto nasale anteriore che una breve pressione tenuta per un 4-5 minuti fa fermare il sanguinamento. Bisogna soltanto portare il bambino eventualmente per delle indagini un pochettino più approfondite, seppur tenendo la testa in avanti il sangue va giù indietro in gola, perché ci sono delle formazioni invece del rinofaringe che possono, cioè della parte che sta dietro il naso, che possono dare dei sanguinamenti anche importanti che vanno trattate diversamente. A volte anche delle pomate messe nel nasino tendono a rinforzare questi capillari, queste vene che ci sono anteriormente, pomate fatte per qualche settimana eccetera, certo. E risolvono i problemi. 800 24 00 24, se volete superare la barriera rosa e avere i consigli dei nostri esperti. È tornato a trovarci il dottor Nicola Forte, eccolo qua, buongiorno. Buongiorno Nicoletta. E a forza di catturare questi odori, anche con lei abbiamo parlato di odori, perché sono oltre 100, no? Le voci di spesa che puzzano, e che possono attirare il fisco e invitarlo a ficcare il naso. Ma dottore, che cosa succede? Magari il fisco sente puzza di evasore, mette il naso, mi manda una raccomandata, e che cosa dobbiamo fare? E semplicemente dobbiamo leggerla con attenzione, non preoccuparci, verificare i chiarimenti che ci vengono chiesti a proposito di determinate voci di spesa, sicuramente attivarci, iniziare un colloquio con il fisco e spiegare, probabilmente il fisco mi chiederà se ho sostenuto quelle spese e come le ho sostenute. Può darsi anche che la comunicazione contenga un'indicazione errata, no? Nel senso, abbiamo milioni di dati che vengono gestiti nelle mie cervelloni del fisco, quindi può darsi anche che mi venga imputato un acquisto di un immobile che in realtà non è stato fatto, certo. Quindi questi sono equivoci sempre possibili che possiamo tranquillamente chiarire, ovviamente non ignorando la comunicazione, ma attivandoci prontamente, iniziando appunto un confronto con il fisco. Quindi attenzione, ma tranquillità. Manteniamo la calma, dottor Franzetti, ci stressiamo il naso si chiude. Quindi Giovanna, che ci chiama dalla provincia di Milano, buongiorno. Pronto? Buongiorno Giovanna, benvenuta. Buongiorno Nicoletta, buongiorno dottor Forti. Un'informazione per cortesia: mio figlio sta comprando un appartamento, non ha tutti i soldi, è un lavoratore normale, insomma. Vorrei regalargli una cifra non abbastanza consistente. Cuore di mamma, vero? Sì, certamente, Nicoletta. Io avevo pensato di fare un bonifico bancario dal mio conto al suo. Finisce lì oppure potremo incorrere in qualche controllo fiscale sia io o mio figlio? Dottor Forte, che dice? Allora, il primo suggerimento, ne possiamo dare più uno, è utilizzare appunto uno strumento tracciato, anche perché siamo obbligati, visto che la cifra è importante, supero sicuramente 999,99 euro e quindi un bonifico bancario. Poi, come posso in qualche modo proteggermi e giocare, come si suol dire, di anticipo? C'è una norma del codice civile dove si dice che le cosiddette donazioni di modico valore non richiedono l'atto pubblico. Ora, il modico valore è un concetto molto generale, bisogna valutarlo e verificarlo in funzione di tanti parametri, però se la cifra è importante, io potrei anche tramite l'aiuto, il supporto di un notaio fare un atto di donazione, avrò uno strumento ancora più forte per spiegare al fisco come mio figlio ha acquistato quell'immobile. Ultimo passaggio importante, giustamente la signora si preoccupava perché l'attenzione del fisco potrebbe concentrarsi su di lei e dire: visto che tu hai dato a tuo figlio 200.000 euro, ipotizzo una cifra, mi fai vedere dove li hai presi? Esattamente, quindi è una preoccupazione legittima, ma se tutte le carte sono in regola, piano piano si riesce a dimostrare. Ma dai messaggi anche che stanno arrivando, è il timore che il fisco sbagli e che noi non siamo in grado di dimostrargli che sta sbagliando. Avvocato Forte, dottor sì, Forte. Nessun problema. Sì, certo, capisco che queste preoccupazioni sono legittime, soprattutto perché il fisco può iniziare a utilizzare questo strumento retroattivamente dal 2009, quindi io potrei non avere conservato tutta la documentazione che mi serve per spiegare al fisco. Sì. Certo, però ho movimentato delle somme importanti, prima facevo un esempio, 200.000 euro, una somma così importante che sia passata, non sia passata tramite un conto corrente bancario è obiettivamente difficile. È chiaro che questo un minimo ci dovrà indurre ad a cambiare un po' le nostre abitudini per il futuro, no? Dove devo in qualche modo fare tesoro di questa esperienza e quindi sotto questo profilo cambiare qualche cosa nel mio modo di gestire le mie risorse. Quindi se dovessimo chiederle un consiglio, la sua raccomandazione sarebbe quella di tenere tutto ed essere trasparenti. Sì, conservare ogni minimo documento può essere anche poco utile. Diciamo, nei limiti del possibile, è chiaro che un po' di familiarità mi aiuterebbe in questo senso, più effettuo pagamenti con strumenti tracciati da bancomat, carta di credito o altro, e più io sono in grado chiaramente di ricostruire un po' tutta la mia situazione. Il problema non è tanto dimostrare che non ho speso, il problema è dimostrare da dove sono arrivate le risorse che ho utilizzato per spendere. Quindi dovrò fare attenzione a conservare i documenti non tanto e solo per l'uscita, ma soprattutto per ciò che riguarda le entrate. Grazie, dottor Forte, è stato chiarissimo e anche rassicurante, vero dottor Franzetti? Assolutamente sì. Grazie dottore per essere stato con noi, ci sentiamo prestissimo. A proposito, lei con gli odori come va? Li riconosce? Come sta il suo naso? Fino adesso, facendo debiti scongiuri, non ho grossi problemi e forse sarà l'esperienza fiscale che mi ha temprato. È possibile. Grazie dottor Forte. Intanto i nostri ascoltatori hanno cercato di dare una risposta al suo quizzettone sulla mappa degli odori, che mi ha messo un po' in crisi gli ascoltatori quando ha dato come test il riconoscimento dell'odore del caffè, perché lei sa bene che ci sono state spiegate delle possibili relazioni tra la perdita di olfatto e una malattia neurodegenerativa, e allora gli ascoltatori sono un po' preoccupati, no, ma lo chiariamo mai, subito. Maura dalla provincia di Milano, che cosa mi dice? Quanti sono gli odori? Tre. Mi spiace perché tre proprio l'ho inventata io perché mi piaceva l'odore sexy. Vede Maura, il tre è stata un'invenzione del dottor Franzetti. Vediamo se ci riesce Leonora. Leonora da Milano, buongiorno. Buongiorno, per me sono 10. Esatto. Grazie. Eleonora, brava. Perché i cinque erano i gusti, i cinque che avevamo detto, amaro, aspro, dolce, salato e umani, sono i gusti, mentre invece gli odori sono 10. Bravissima Eleonora, un libro di cuore o un libro di denari? Cuore. Allora Eleonora lascerà tutti i suoi riferimenti, grazie Eleonora, buon grazie. Naso. Dottor Franzetti, allora, naso, odore e Parkinson, che relazione c'è? Ci tranquillizzi come ha fatto il dottor Forte per il redditometro e il fisco ficcanaso? Beh, è più facile tranquillizzare per il Parkinson, per cui il dottor Forte è stato bravissimo. No, assolutamente, una riduzione dell'olfatto non è segno, si dice, patognomonico, cioè che indica assolutamente una patologia degenerativa. Fa parte di una serie di segni che vanno letti tutti insieme, che devono essere presenti tutti, che devono essere seguiti nel tempo, che devono essere indagati e che possono portare a una diagnosi. La sola riduzione dell'olfatto non è segno patognomonico per una malattia degenerativa. Allora, vogliamo però proteggerlo questo olfatto, perché sottoponiamo il nostro naso sempre a degli odori molto forti. Ormai gli odori delle case si sono un po' persi. Certo. C'è una sorta di manutenzione dell'olfatto? Ma sicuramente è usarlo con coscienza, perché il fatto di abituarsi a sentire i profumi, a gradire i profumi, a riconoscerli, per esempio quando mangiamo, ad annusare le pietanze prima di gustarle, come si fa per esempio quando si degusta un buon vino, oppure quando siamo in casa cercare di non usare per esempio dei detersivi o delle sostanze irritanti che possano a lungo andare irritare le mucose nasali, e quindi detersivi con odori troppo forti, troppo acri in questo modo qui potrebbero nel tempo danneggiare il nostro olfatto, così come anche il fatto di non deodorarsi o profumarsi eccessivamente. Bisogna deodorarsi giusti, no? Un po' alla rosa, come abbiamo iniziato noi, esatto. Profumare di rosa, e poi qualcuno sentirà la rosa, qualcuno sentirà il giacinto, non sappiamo, chissà che profumo ha Gabriele che ci chiama da Pistoia. Buongiorno Gabriele. Buongiorno. Lei è un uomo profumato, molto profumato, o usa il profumo della sua pelle? Nei momenti importanti. Nei momenti importanti indossa il suo profumo. Gabriele, eccoci qua. Che ci dice? Volevo fare una domanda, professore. Io soffro spesso di raffreddore e anche un po' di sinusite. Mi hanno consigliato di fare i lavaggi con un sistema chiamato Lota Yala. Sì. Io ho visto su internet praticamente un lavaggio con una macchinetta, tipo un bricchetto. Sì, ne abbiamo parlato prima sul suggerimento di Anna, che lo usa da tempo. Che lo usa da tempo e ci racconta che non ha più il raffreddore, si usa acqua e sale. Il dottor Franzetti diceva l'acqua dovrebbe essere un po' tiepidina. Sì, meglio se tiepida. Forse però Gabriele, se non ha mai usato la Lota, farebbe meglio usare un sistema molto più semplice. Dottor Franzetti, ma l'otorino è lei, non Beh. Voglio rubarle spazio. No, allora, il lavaggio nasale concettualmente è un bene per il naso. Deve essere fatto nel modo che è più utile e più pratico per una persona. Anna prima lo faceva perché faceva anche yoga, quindi fa parte anche un po' di una filosofia di vita affrontare il lavaggio nasale in questo modo, ed è giusto che sia così. Ci sono anche tantissime acque di tipo termale, tantissime acque ipertoniche o isotoniche. Si acquistano in farmacia. Ci sono anche i fai da te. Il problema è il concetto, è cercare di fare una cosa che nel tempo noi capiamo che ci genera benessere. Poi possiamo andare. Come saggio, dottor Franzetti, certo, è vero. Poi bisogna. Cioè, se uno col fai da te riesce ad ottenere un benessere per se stesso, è benissimo. Continuiamo. Comunque, lavaggi, soprattutto in questo periodo, laviamo le mani e laviamo il naso. Sì, perché a volte se ci si profuma troppo è perché non ci si lava. Allora, grazie al dottor Franzetti per essere stato con noi. Domani torna Deborina. Ringraziamo Gianmarco Ferronato in regia alla parte tecnica, Marco Lombardo, Laura Vanossi e soprattutto voi che ci seguite, ci scrivete, ci sostenete, restate con noi. Io vi do appuntamento a domani, intanto passatevi una buona giornata. Vi saluto, buon naso, respirate profondamente. Non abbiamo parlato dell'importanza della respirazione, ma avete tutte le info sull'archivio di Cuore Denari. A domani. Cuore e denari.